America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Oggi l'America torna al lavoro, alla ricerca della normalità del giorno per giorno. Per esempio, sulla prima pagina del New York Times di oggi c'è un articolo su Chris Christie, governatore del New Jersey, candidato certo per la nomination repubblicana del 2016, andrà in Messico, è la sua prima prova di politica estera, funzionerà, non funzionerà. Poi c'è una storia sulle rocce di vari quintali che si muovono misteriosamente nella Valle della Morte in California, la Death Valley, famosa Death Valley, lasciando dietro di sé tracce perfette. E gli scienziati hanno capito come mai questo succede, perché si sciolgono formazioni di ghiaccio e il forte vento riesce a muoverle. Ecco, c'è anche la storia di un cane che muore da solo in un villaggio africano. Normalità, storie curiose, ma devo dire che la normalità è solo in superficie, perché gli altri articoli sono tutti sulla NATO, sulle tensioni in Ucraina, sulla partenza di Obama questa sera per l'Europa, per l'Estonia e poi per il Galles, dove vi sarà un importante vertice NATO. Ieri vi raccontavo di un gruppo di americani in una grande casa raccolti sotto una tenda ad ascoltare due guru di politica estera. Ecco, credo che forse valga la pena che vi racconti qualcosa di più di quella storia, perché secondo me ci dà il polso di un paese alla ricerca di leadership. Ecco, l'incontro avviene in una casa molto grande, una casa stile Old America, bianca, immacolata, ci sono prati meravigliosi. Questa casa è grande, ma qui la chiamano un cottage, nella South Fork a Long Island. C'è questa grande tenda che ospita, diciamo, un centinaio di persone che sono venute al tramonto di una delle più belle giornate dell'estate per ascoltare queste due celebrità della politica internazionale. Sotto la tenda chi c'è? Beh, ci sono personaggi con importanti, anzi importantissime, ramificazioni economiche e politiche. Molti di loro hanno un patrimonio personale, ma insomma, valutato in svariati miliardi di dollari. Non vi faccio i nomi perché l'evento era privato. Controllano interi settori dell'economia, hanno interessi in grandi multinazionale. Insomma, sotto questa tenda a Southampton ci saranno stati complessivamente, ma direi, alcune decine di miliardi di dollari, e molti di questi miliardari non sono tranquilli, anzi sono decisamente preoccupati per la piega che ha preso l'estate, dalla crisi ucraina, quella dell'ISIS. E uno di loro mi dice non abbiamo reagito con durezza quando il califfato ci ha mostrato di che cosa è capace, tagliando la testa di un americano. Il presidente che ha fatto? Beh, dice, faremo partire dei capi d'accusa per i colpevoli. Un altro dice, abbiamo disordine, instabilità, sono due ingredienti deleteri per le prospettive di crescita nell'economia globale. E qui, dal punto di vista economico, nel breve si dà peso all'occupazione, si dice che non è occupazione di qualità, non è forse al massimo del suo potenziale, ma il problema è che se non rientriamo da queste crisi parallele, il rischio da qui a pochi anni è quello di un nuovo crollo dell'economia. Insomma, l'America, bene in chiusura dell'estate, chiede un ritorno di leadership. I due speaker chi sono? Strobe Talbott, presidente della Brookings Institution, direi uno dei maggiori esperti di Russia, è stato inviato di Bill Clinton a Mosca, è stato il numero due al Dipartimento di Stato. L'altro è Martin Indyk, che è stato negoziatore in Medio Oriente per varie amministrazioni, inclusa l'amministrazione Obama all'inizio di quest'anno, poi ha lasciato quando i negoziati di pace si sono chiusi, oggi è vicepresidente anche lui alla Brookings Institution, e ci danno un quadro che coincide con quel che sentiamo in sala. Obama, in questa sua missione in Europa, dovrà recuperare la sua leadership personale e affermare quella degli Stati Uniti e del paese. E come dicevo, il presidente parte questa sera per Tallinn, domani sarà in Estonia per un vertice dei paesi baltici, poi andrà a Newport in Galles per un vertice della NATO. Dovrà ridefinire il ruolo dell'Alleanza Atlantica ora che le grandi missioni militari dall'Afghanistan al Kosovo stanno per terminare e il messaggio comune che si percepisce sotto la tenda vicina all'Oceano Atlantico è semplice: senza una forte leadership americana prevale il disordine, non solo in Ucraina e in Europa, ma anche in Medio Oriente. We will agree a readiness action plan to make NATO more agile than ever. Ecco, una prima anticipazione di quel che succederà al vertice NATO l'abbiamo già. Si deciderà di rafforzare gli avamposti di truppe alleate in Europa orientale per poter avere un movimento più rapido in caso di necessità. Un'altra notizia ve l'ho data ieri: l'idea era quella di creare una missione per difendere i membri della NATO da attacchi cibernetici, da attacchi sui sistemi informatici. Dunque la NATO sicuramente cerca di reagire, ma vediamo il quadro d'insieme partendo da Strom Talbot. Look, he is an autocrat. He believes in the vertical of power. He does not preside over a system of terror of the kind that Stalin did. Ecco, Talbot dice che Putin è un autocrata, anticipa che verrà il giorno in cui il presidente russo passerà, ma la Russia invece resterà e quindi dovrà confrontarsi forse con dei problemi seri se non si porranno dei freni a questo leader russo. La logica di Talbot è chiaro: la Russia non ha nulla da temere dall'Occidente, ha ricevuto offerte di partnership di vario genere ed è Putin ad essere espansionista, agendo in modo incosciente, seguendo un programma che aveva messo a punto già molti anni fa. Lo stesso vale per il Medio Oriente. Sentiamo Martin Indyk. Thank you very much, Leonard. It's a real pleasure to be with you this afternoon, ladies and gentlemen. I must confess that I don't really understand what you're all doing here on such a beautiful afternoon. I know that I wouldn't be here if I had to come and listen to me. Ecco, Indyk, lo sentite, parte con una battuta, dice: non capisco che cosa facciate qui in un bellissimo pomeriggio, dice, poi va avanti con la sua tesi, sostiene che il conflitto fra israeliani e palestinesi ormai di contorno al conflitto ben più ampio all'interno del mondo arabo, fra sunniti e sciiti, in particolare fra Iran e Arabia Saudita, ma anche fra Qatar, favorevole a Hamas e alla fratellanza islamica, ed Egitto, contrario ad Hamas e alla fratellanza islamica, e fra gli stessi sunniti che vedono schegge di Al-Qaeda affermarsi con inusitata violenza. Partendo da questo sfondo, da presa diretta con la pancia americana e con il messaggio forte sia dell'intelligenza che dell'opinione pubblica più influente, c'è un messaggio per Obama molto chiaro. E cosa farà il presidente? A Tallinn domani riaffermerà la solidarietà della NATO, garantirà l'aiuto diretto dell'America a tutti i paesi baltici. A Newport in Galles avrà l'appoggio di 60 capi di Stato e di Governo, inclusi 28 membri della NATO, per condannare l'azione della Russia e lanciare la nuova missione. Questo vertice NATO doveva essere celebrativo della fine di due missioni militari dell'Alleanza Atlantica, quella in Kosovo appunto, quella in Afghanistan, ma prima dell'avvitamento della crisi in Ucraina e in Medio Oriente altre agende avevano priorità. Ad esempio, vi avevo detto, la questione del cyberterrorismo. Durante l'estate però l'agenda è cambiata, non c'è più bisogno di identificare nuove missioni, quella della NATO resta chiarissima: difendere la stabilità dell'Occidente anche al di fuori dei nostri confini. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Pratero. Ed eccoci alla canzone del giorno, Kelly Clarkson, Stronger. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.